come te, buona come te. Meriti di più, meriti di più. Fortuna che ci sei. Fortuna che ci sei. Tu non hai avuto mai il coraggio che mi dai. Quando tutto chiude tu sai solo perderti. E tu non hai avuto mai l'attenzione che mi dai. Tu non hai avuto mai qualcosa in più. Quante dediche manie, quante strane compagnie, tu non hai avuto mai di più. Meriti di più. Fortuna che ci sei. Fortuna che ci sei. Tu non hai avuto mai il potere che mi dai. Tu non hai avuto mai la verità. E tu non hai avuto una casa libera, una camera per tutti i tuoi eroi. E tu non hai avuto mai troppe regole, non sai, con le regole ti liberi. Fortuna che ci sei. Fortuna che